Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi, cari amici, buona giornata. Una nuova puntata di Questa casa non è un albergo e una nuova sfida educativa. Accanto a me Alberto Pellai, ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. In regia la parte tecnica Carmelo Lauricella e in assistenza in redazione Giorgio De Luca. Allora, oggi Alberto è una sfida complessa, una sfida che per alcuni potrà fare arrossire perché muove emozioni complesse, imbarazzo, vergogna, paura. Ma prima di tutto andiamo ad ascoltare la lettera che ci ha ispirato il tema di oggi. Lasciatemelo dire. Io invidio mia mamma e mia nonna per averci vietato qualsiasi cosa in termini di sessualità. È vero, io ci sono arrivata tardi a scoprire i piaceri dell'amore, ma tutto sommato devo dire che non mi è andata per niente male. Invece, con mia figlia di 16 anni, vivo ogni giorno sulle spine. E non sto a dirvi quante ansie mi vengono pensando a quest'estate in cui lei per la prima volta andrà in vacanza con un gruppo di amici nella casa al mare di uno di loro. Sono 9, tutti bravi ragazzi, 4 femmine e 5 maschi. Io non so come spiegarle che tutto ciò che fa lontano da casa deve essere in continuità con le regole, i valori e gli insegnamenti che valgono quando è in città, vicino a noi genitori. Sono molto spaventata, soprattutto dal rischio legato ai comportamenti sessuali, cosa di cui io e mia figlia non abbiamo mai parlato insieme. Sì, anni fa le ho parlato di come siamo fatte noi donne, ma un conto è spiegare il ciclo mestruale, un'altra cosa invece è parlare dei rapporti sessuali. Insomma, sono al palo, una mamma confusa. Allora Alberto, una mamma confusa, e intanto se ci sono mamme confuse al palo come la nostra ascoltatrice o papà, 824 0024, un'occasione per confrontarci, per accendere pensieri. In linea con noi abbiamo la dottoressa Giommi, psicoterapeuta e sessuologa, dirige l'Istituto di Sessuologia di Firenze. Dottoressa Giommi, buongiorno e bentornata. Buongiorno, bentrovati. Allora, una risposta, tante risposte e molte di queste lei le ha scritte in un libro che ha appena pubblicato, Sesso Under 18 per Sperling Editore, una guida più per le mamme, i genitori in genere o per i ragazzi? Ma l'obiettivo è un po' che sia una guida per tutti e due. Credo che la mamma che ha scritto in fondo racconti che ha delle preoccupazioni perché ha detto solo le cose essenziali, ma in realtà da una certa età in poi ci sono i comportamenti, cioè, quindi il mio augurio è che questo libro risponda alle domande di tanti ragazzi e ragazze che abbiamo incontrato in tutta Italia per fare educazione alla sessualità, alle affettività, e sia poi anche una guida per i genitori per dare risposte o per cominciare a preoccuparsi di alcune cose o trovare soluzioni. Alberto, abbiamo delle domande quindi da lanciare ai nostri amici a casa. Sì, il primo aspetto è proprio legato al fatto che probabilmente molti dei vostri figli adolescenti stanno partendo per le vacanze e probabilmente magari stanno per fare le loro prime vacanze da soli. Voi che genere di conversazioni, raccomandazioni, discussioni preventive, ecco, chiamiamole così, fate con i vostri figli? Vi preoccupate solo che stiano in sicurezza, non salgano su macchine magari guidate da chi ha bevuto, oppure avete parlato con loro anche molto francamente, direttamente, di sessualità e di comportamenti sessuali? E un altro aspetto secondo me molto interessante è che è vero, i genitori fanno fatica a trovare le parole, non sanno mai quando è il momento giusto, ma i vostri figli non vi lanciano mai segnali o messaggi che vi fanno capire mamma e papà dobbiamo parlare insieme? Cioè, stanno davvero sempre in silenzio, non vi chiedono mai nulla, oppure hanno con voi provato ad aprire loro il dialogo? E quindi voi come vi siete fatti trovare preparati, come avete reagito? Provate a farci entrare un po' nelle vostre case. Dottoressa Giommi, e lei ci faccia un po' entrare nella testa dei ragazzi che spesso, come diceva Alberto, non chiedono, ma forse perché non hanno le parole giuste per fare le domande, non hanno la necessaria confidenza. Ma dunque i ragazzi e le ragazze, quando parliamo con loro da vicino e poi dall'altra parte quando nella storia clinica dei pazienti cerchiamo di raccogliere le informazioni sulla loro educazione sessuale ci confessano sia dal vivo sia pensando al passato che in realtà avrebbero amato poter parlare con qualcuno delle loro paure, delle loro preoccupazioni. E tra l'altro quando scoprono che i genitori, magari in modo anche imbarazzato, però cercano di avvicinarsi ai loro problemi, in generale, anche se poi fanno appunto atteggiamenti da super uomini o super donne, in realtà sono poi contenti che i genitori abbiano mostrato un interesse, perché di fatto appunto le domande che i ragazzi ci fanno e anche la simpatia con cui ci salutano quando abbiamo finito di lavorare con loro sono domande che sono legate nell'età più piccole alle curiosità, ma nell'adolescenza e poi quando diventano appena più grandi dell'adolescenza sono molto legate anche alla possibilità di sentirsi accuditi, confortati, di sciogliere delle paure, di saper fare ciò che è giusto, la loro prima volta, i loro primi giochi sessuali, le loro scoperte, comunque avendo qualcuno di riferimento che li fa sentire meno sperduti. Dottoressa Giommi, però io constato, lavorando con molti genitori, che i genitori dicono fatelo voi esperti, perché voi sapete cosa dire, come dire, mentre noi siamo davvero sprovveduti, non abbiamo mai ricevuto quando eravamo ragazzi un'educazione sessuale, quindi non abbiamo visto come si fa sulla nostra pelle come si fa una buona educazione sessuale ad un ragazzo. E poi sinceramente noi magari diamo messaggi sbagliati, non riusciamo a cogliere il nocciolo della sostanza. Ma in realtà appunto quando si diceva all'inizio che il libro per me è stato scritto anche per i genitori e quando appunto si fanno le conferenze con i genitori in modo da poter parlare anche con loro, con i loro dubbi e le loro paure, sicuramente gli esperti sono importanti anche perché hanno magari imparato il linguaggio, la capacità di entrare in contatto con le varie fasce d'età. Però c'è anche un aspetto di confidenzialità o d'urgenza che può essere più coperto anche dalle figure genitoriali, l'accompagnare a una visita, il poter aprirsi ad una confidenza emotiva, capire il tono dell'umore di un figlio o di una figlia rispetto agli amici, all'amore, eccetera. Per cui forse appunto anche i genitori si possono preparare, cioè in qualche modo ritengono giustamente non devono raccontare la loro sessualità, però potrebbero, e lo dimostrano venendo alle conferenze, magari potrebbero avere anche loro una formazione o un'informazione che gli permetta magari anche di dire questa cosa non la so però la cerco, oppure sì va bene accolgo la sua domanda poi vediamo insieme. Ecco, credo che anche se non sono così esperti è giusto che non diano informazioni sbagliate, però potrebbero comunque aprire una comunicazione emotiva, affettuosa, calma con i figli. Noi abbiamo in linea Daniela che ci chiama dalla provincia di Roma, che saluto. Daniela, buongiorno. Buongiorno a voi. Io stavo spiegando alla Nicole, mi pare si chiami, sì? Che ha risposto. Ho avuto una cosa molto strana, infatti la vostra trasmissione coincide con questa faccenda, è quasi strano. L'altro ieri, io ho una figlia di 15 anni, innamorata, forse il suo primo grande amore, e ha mandato a questa persona dei messaggi con il mio cellulare, per cui io mi sono ritrovata, ovviamente avrei potuto anche cancellarli e non leggerli, ma l'ho letti, devo confessare che li ho letti, e credo che fossero dei messaggi in risposta a dei tentativi di questo ragazzo un pochino più grande di mia figlia a degli approcci magari già un pochino troppo avanti. Sì. E mi è piaciuta la risposta di mia figlia, perché è stata molto molto ironica, ma allo stesso tempo molto piena di rispetto per se stessa. E questa è una cosa su cui io vorrei molto insistere. Io con mio figlio ho sempre parlato molto, sia dal punto di vista proprio tecnico, senza scendere nei particolari, eccetera. Ma quello che ho cercato sempre di farle capire è che l'atto sessuale è una cosa talmente bella che merita il rispetto per se stessi, cioè di non cederlo, deve essere una bella cosa e deve essere una cosa fatta con rispetto, non deve essere una merce di scambio, no? Deve certo. Essere una cosa fatta con rispetto per se stessi prima di tutto e poi per gli altri. Credo che questa sia una cosa che mia figlia ha percepito molto bene, visto le risposte che ho dato a questo ragazzo. Tutto qua, volevo soltanto spiegare, almeno la mia esperienza è stata questa, non aver paura di questi momenti, perché questi momenti arrivano, però prenderli con leggerezza e con, no, non con superficialità. Certo. Per caso, Daniela, avete parlato poi lei e sua figlia? Allora, mia figlia adesso sta in vacanza, per questo io ho visto questo. Cioè, gli ho detto a Sofia, la prossima volta, mamma, che mandi dei messaggi, magari cancellali. Oddio, non mi dire che l'hai letti. Però mi sei piaciuta, la risposta che hai dato mi è piaciuta. Dice, va bene, ok, d'accordo, però ho fatto cadere lì la cosa, ma senza nessuna... Bene, però c'è un bel rapporto tra Daniela e Sofia. Dottoressa Giommi. In realtà, appunto, la cosa molto bella è che è stata aperta comunque un momento di dialogo antecedente alla possibilità che iniziasse la sessualità, cioè, quindi questo ha dato anche la serenità di pensare che poi appunto la sessualità non è un'esperienza obbligatoria, è una bella esperienza, va fatta appunto con autostima, con capacità di proteggersi. E l'altro discorso è la capacità anche di rispondere ad una persona che ti sollecita troppo, magari in modo ironico, come sanno rispondere oggi i ragazzi e le ragazze, però rispettando un po' le proprie regole d'oro, cioè, quindi sicuramente la mamma è stata importante perché ha saputo aprire uno spazio in cui si può parlare di queste cose, ci si può dire delle cose al momento giusto, e poi appunto c'è un filo di confidenza anche rispetto ai messaggi. Mi sei piaciuta, credo che appunto un po' una buona restituzione. Il mio sogno con le ragazze e i ragazzi è che abbiano il cervello acceso, cioè quindi che riescano in qualche modo a rispettarsi, a conoscersi, a fare questa esperienza nel miglior modo possibile. È quello che ci auguriamo tutti, dottoressa Giommi. Sarebbe comodo e bello avere un test per misurare se i ragazzi hanno il cervello acceso e poi sottoporci anche noi. Andiamo a Rosa da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, sono Rosa e sono mamma di un ragazzo di 15 anni e di una femmina di 23. Sì. Ragazzi calati nel mondo, nella norma, Nicola suona il pianoforte, Laura il terzo anno di università. Ho lavorato molti anni in campo sociale e quindi ho una buona apertura mentale, non ho grossi tabù e ho cercato sempre di improntare il rapporto, anche parlando di sessualità, di affettività, in un modo molto tranquillo e pacato. Il problema è trovare accoglienza, trovare apertura. Io mi trovo di fronte a due muri diversi perché i miei ragazzi ritengono ogni volta che questi siano i loro problemi e non i miei. Per cui le informazioni che io do di tipo tecnico o altro sono informazioni che mi vedono costretta a dire adesso mi ascoltate, dopodiché non ho altro spazio. Alberto, sto sorridendo sì, perché lui sente che prima o poi toccherà anche a lui, Rosa. Allora, io credo che il problema di Rosa sia molto molto comune tra i genitori. Credo di aver ascoltato centinaia di genitori che mi dicono ma io voglio parlare di sessualità con mio figlio, ma lui mi dice per favore stai zitto, stai zitta a seconda che sia mamma o papà e non vuole sentire niente da me. Io chiedo anche alla dottoressa Giomi, io credo che noi abbiamo i primi 15 anni di vita, soprattutto dei nostri figli, che sono proprio un continuum in cui come mamma e papà abbiamo proprio il dovere, nonché il diritto, e poi penso anche la passione di inventarci un progetto di educazione affettiva e sessuale per i nostri figli. Cioè molte volte un figlio viene confrontato sul tema della sessualità per la prima volta da un genitore intorno ai 12, 13, 14 anni, proprio quando è immerso in un mondo di nuovi pensieri, nuove sensazioni, e la vive un po' come un'invasione, un'intrusione. Cominciare molto prima, 3, 4, 5, 6 anni, cioè imparare a parlare insieme del corpo, del cambiamento corporeo, di cosa vuol dire amarsi, volersi bene, la storia d'amore di mamma e papà, che è sempre appassionante per un figlio, probabilmente facilita poi rimanere in contatto con loro quando entrano nell'età proprio quella calda, quella bollente, dove ci sono da gestire un bel po' di nuove cose. Però rilancio proprio la questione alla dottoressa Giommi. Primo, cosa fare quando un figlio ti dice io da te non voglio sentire niente? E poi, ecco, trovo che Rosa, secondo me, ci ha dato comunque un bel esempio. Io ad ogni modo li faccio sedere e dico adesso mi ascoltate, poi fate quello che volete. È una buona tattica? Sì, a me piace molto. Infatti in realtà i genitori a volte, non Rosa ma altri genitori, prendono la scusa che i figli si sottraggono per dire vabbè io ci ho provato però non mi riesce, non mi danno il permesso. Invece in qualche modo, anche se i figli vogliono avere un atteggiamento un po' supponente, cioè noi sappiamo già tutto, non è il momento, a parte condivido con Alberto il discorso che in realtà bisogna cominciare molto presto, perché in adolescenza o successivamente i figli poi tendono ad essere più disobbedienti o più chiusi rispetto alle informazioni. Però avere il coraggio nei momenti in cui comunque pensiamo di dover parlare della sessualità, dell'affettività, e non aver paura di dare un segnale, io ci sono, ho visto nella mia esperienza e anche nell'esperienza non soltanto dell'educazione alla sessualità ma anche della clinica, che se i genitori comunque danno un segnale io ci sono, questo permette ai figli, magari non subito, in quel momento lì possono negare l'ascolto, dire che non gli interessa oppure sottrarsi, però in qualche modo è come se il genitore avesse rispettato un compito importante, che io ci sono, non ho paura. Mi piace anche adoperare la parola non ho paura, quindi potremo affrontare tante cose insieme. Dottoressa Giommi, quindi il suo invito, io capisco che sia giusto, i manuali dicono educate i vostri figli alle emozioni, alla sessualità, all'informazione, alla conoscenza del proprio corpo sin da quando sono piccoli. A me piace però anche dare delle indicazioni, dei suggerimenti, un aiuto a chi questo tempo magari se l'è fatto scivolare tra le dita e si ritrova adesso con un figlio adolescente che dice so già tutto, che cosa vuoi dirmi? Quindi il suo invito è un po' seguire l'esempio di Rosa e tornare su questo discorso e senza farci venire paura e senza pensare che i nostri figli non vogliano parlare. Insomma, anche se ci chiudono la porta, aspettiamo e proviamo a riaprirla? Sì, cioè anche perché poi possiamo adoperare anche delle cose laterali, cioè tipo lasciare il Deplant del consultorio Spazio Giovani, proporre magari o far proporre dal partner una visita anche magari andrologica per il maschio o ginecologica per la figlia, aprire un discorso perché si sente una trasmissione o si leggono gli inserti che si occupano di salute o le trasmissioni che si occupano di salute, cioè quindi si può anche, se lì per lì il discorso diretto crea delle preoccupazioni, delle resistenze, trovare delle strade laterali che possono contenere la possibilità di aprirsi, magari senza disturbare, cioè si getta un'iniziativa, se ne getta un'altra, perché appunto io ho visto poi che in realtà i ragazzi e le ragazze, quando parli con loro, hanno tante domande, paure, dubbi o sicurezze sbagliate che li accompagnano e che poi non gli rendono facile vivere queste esperienze. Abbiamo Manuela, ci chiama da Cuneo all'824-0024. Buongiorno Manuela, benvenuta. Buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione a tutti. Allora, io innanzitutto premetto che sono una zia, quindi di conseguenza con i miei nipoti che hanno 13-14 anni, un maschio e una femmina, ho un rapporto molto, molto chiaro e molto aperto di amicizia, sì. Diciamo. Quindi abbiamo sempre avuto, siamo sempre detti tutti, io gli ho sempre raccontato qualunque cosa e poi mi hanno fatto domande sulla sessualità. Mia nipote è una classica romantica, per cui lei aspetta il classico principe azzurro, ho già avuto qualche piccolo flirt con ragazzini che mi ha fatto vedere su Facebook eccetera e niente di più. Per avere l'approvazione, è bello, cosa dici? Esatto. Guarda. Sono molto carini anche, gli dico perché brava Tosca, continua così. Per cui lei insomma, poi i suoi genitori sono molto innamorati e quindi c'ha proprio questa idea che lei mi dice io mi concederò soltanto quando veramente sarò amata. Premetto, lei ha 16 anni, quindi insomma c'è già un altro, non lo so, forse è leggermente più matura da questo lato. E Romain invece ha 13 anni, lui delle ragazze proprio adesso non ne vuole sapere, dice che sono tutte capricciose e tutto il resto, però insomma mi racconta le sue piccole esperienze che si fa da sola. Io a volte riesco sono un po' basita perché non so bene che cosa dirgli, credo che sia normale che lui faccia queste cose, per cui gli dico sì, d'accordo. Insomma, che a 13 anni di ragazzine non ne voglia sapere, mi sembra assolutamente fisiologico. Perché i miei nipoti quest'anno, visto che hanno preso buoni voti e tutto il resto, hanno avuto l'autorizzazione dei loro genitori di venire con altri 6 loro amici che abitano anche in Francia, nella nostra casa in montagna, e sono stati 4 giorni da soli, io che dovevo andare comunque a controllarli. Io naturalmente sapevo molte cose che facevano, soprattutto Romain, che purtroppo sapevo che stava già aveva provato a fumare, che in qualche festa aveva bevuto della vodka, mi diceva. Quindi cosa faccio? Io una sera piombo da loro senza avvertimento e vedo quello che pensavo di vedere, sigarette, bottiglie d'alcol e tutto un po'. Allora gli ho fatto veramente a tutti quanti, a tutti e sette i ragazzi, un tombino che non finiva più, cercando di fargli capire che la libertà che gli avevamo dato non doveva essere spesa in questo modo, che non volevo, che comunque quello che stavano facendo era grave, che ero molto delusa da loro, fatta. Che cosa è successo? Che gli ho tolto le bottiglie, chiaramente. Certo. Perché? E comunque sono andata tutti i giorni a controllare, ma io andavo durante il giorno ed erano molto tranquilli perché mi dicevano che di sera facevano festa. Il quarto giorno sono stata raggiunta dai carabinieri che mi hanno avvertito che appunto senza casa i vicini si erano lamentati per gli schiamazzi notturni e tutto il resto, eccetera. Quindi questo qua per me è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io ho detto: io vi avevo avvertito, avete speso male comunque il tempo che vi abbiamo dato e la libertà, certo, che vi abbiamo dato. Adesso, Tosca Romain, parlate ai vostri genitori e dite le cose come stanno. Dite che alle feste si beve, si fuma e tu, Romain, soprattutto il mio nipotino più piccolo, sì, è quello che è il più, non so, il genio ribelle, che adesso insomma con i suoi amici bisogna fumare perché altrimenti non sei dentro, tutte queste stupidaggini, insomma. Sono partita l'altro giorno per andare in Francia, loro da Nizza, per avvertirgli che assolutamente dovevano parlare tutta la mattina a chiacchierare, lui si è messo a piangere, questo e quell'altro. Finalmente oggi gli hanno parlato, ieri gli hanno parlato i genitori, e che cosa è successo? Che mia sorella gli ha praticamente tolto tutto quello che potevano avere, quindi la chitarra del sì, ragazzo. Insomma, in castigo. In castigo, e per di più adesso non le parla più. Mia sorella gli fa il muso classico, perché... Sa che noi mamme siamo così, Manuela. Allora non lo so. Stamattina mi telefona Romain, mio nipote, dicendomene di tutti i colori: grazie per il consiglio che mi hai dato, vedi, avevo un pochettino di libertà, adesso non ce l'ho più, sapevo che ho fatto insomma, male. Insomma, la zia ci è andata di mezzo, è nella sua figura da zia, è diventata insomma quella che fa la spia ai genitori. D'altra parte, meno male che c'è una zia che controlla e cerca, no, di parlare ai ragazzi, la comunità degli adulti. Alberto. Sì, anch'io stavo proprio dicendo che avrei commentato questa storia con meno male che ci sono le zie. Mi sembra un classico esempio di eccesso di libertà concessa a ragazzi che non sono in grado di gestirsela, e l'abbiamo detto anche tante volte dalla nostra trasmissione, cioè quando i ragazzi, i figli devono gestirsi spazi di libertà, devono sentire che ricevono dai genitori un patrimonio di regole che devono essere rispettate in una forma di contratto, cioè tu devi gestirti quella libertà, queste però sono le condizioni per poterlo fare. Hai sgarrato, secondo me in questo momento dare castighi è proprio importante in termini educativi. Rilancio però anche alla dottoressa Giommi, perché molte volte i genitori lasciano libero accesso agli spazi di casa oppure di una casa in vacanza a figli senza regole o limiti particolari, e lì ne succedono davvero di tutti i colori. Dottoressa. Infatti, tra l'altro, appunto, una madre mi raccontava di un ragazzo giovane che era andato a un ultimo dell'anno in cui in casa di campagna che i genitori avevano lasciato serenamente ai figli, di fatto arrivavano anche strani, c'erano molte bottiglie, bevevano, come racconta la zia. Cioè, il discorso è che dobbiamo stare attenti a non abilitare i ragazzi che sono molto piccoli o giovani a pensare che siano in grado di reggere poi il confronto con gli altri e a gestire tutte le regole. Una delle cose che ci preoccupa, anche quando appunto incontriamo i ragazzi e le ragazze, è proprio l'uso dell'alcol per disinibirsi, per essere più coraggiosi. E poi anche questo fatto che non esiste nessuno nel gruppo. Noi consigliamo, anche consiglio nel libro, di costruire comunque un gruppo di controllo anche all'interno del gruppo dei pari, in modo che se qualcuno fa eccessi ci sia qualcuno che comunque ha ancora la testa accesa. La zia credo aveva fatto una cosa giusta, anche perché aveva assunto una responsabilità, e anche i genitori, perché oggi c'è un po' il vizio di pensare che i ragazzi di 13, 15 anni, 16 siano già abilitati a vivere da soli senza nessuna tutela, mentre forse appunto far funzionare una tutela, quando sappiamo dalle inchieste, dalle ricerche che vengono fatte anche sul sesso, che raramente usano comunque il sesso sicuro, che a volte fanno sesso appunto dopo che hanno bevuto, che possono, quindi sono persone meravigliose e giovani, però credo che sia importante che l'insieme degli adulti produca anche un segnale forte: noi ci siamo e ci sono delle cose che ancora non sono giuste, ecco, per voi. Ecco, dottoressa Giommi, ci siamo anche per dire no, non è il momento. Sì, cioè secondo me per esempio quando noi parliamo con i ragazzi e le ragazze loro ci prendono un po' in giro come esperti, perché dice, quando dobbiamo fare la prima volta noi diciamo quando ti senti pronto, quando hai finito lo sviluppo sessuale, quando hai trovato una persona che ti sembra che sia giusta per te in una situazione in cui sei cosciente e perché hai imparato le cose giuste, cioè quindi loro ci chiedono ma facendo un po' più alla svelta nel rispondere, no? Ecco, e quindi ci vado anche ridere e sorridere perché è vero, noi gli diamo delle regole, però secondo me anche dire no, è troppo presto, stai attento, ancora può essere una cosa sbagliata, comunque assumi delle regole, Alberto diceva il contratto, no? Cioè che ci sia comunque anche una presa di responsabilità comune, non è vero che i ragazzi sono per forza costretti allo sballo, la mancanza di tutela, cioè non è che obbligatoriamente sia la storia dei giovani, anche perché lo vediamo fare anche dalle persone grandi in maniera appunto ripetuta, cioè quindi forse anche dargli l'autostima, la sicurezza, la capacità di proteggersi, credo sia un compito che gli adulti devono mantenere. Assolutamente. Allora, giovani con il cervello acceso, informati soprattutto. E voglio parlarvi di una bella iniziativa promossa dalla Società Medica per la Contraccezione, proprio rivolta ai giovani, attraverso un nuovo sito www.mettiche.it. E in linea con noi abbiamo il professor Arisi, che è ginecologo e presidente della Società Medica Italiana della Contraccezione. Professor Arisi, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti quelli che partecipano al dibattito, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ci sentiamo anche di sabato, non solo durante la settimana, per parlare di questa bella iniziativa con la dottoressa Giommi, Alberto Pellai e i genitori all'ascolto. Dicevamo, i giovani e la sessualità hanno bisogno di sicuramente di informazioni, di rassicurazioni, hanno bisogno di crescere in un clima sereno che soprattutto li renda capaci di affrontare la prima volta le esperienze sessuali con competenze, con protezione e con la giusta autostima. Professora Arisi, la vostra campagna si rivolge ai giovani, ma quale servizio può offrire? Beh, intanto si rivolge ai giovani cercando di instaurare in loro quello che lei accennava già, un senso di responsabilità rispetto alla gestualità del sesso, che non va fatta sì che semplice come un gesto ginnico, deve comprendere i meccanismi di affettività, di maturità. In realtà noi forniamo attraverso quel sito una serie di informazioni che facciano scegliere quando è il momento opportuno e, se del caso, quali sono i possibili strumenti per non incappare in problematiche gravi come le gravidanze non desiderate o le malattie sessualmente trasmesse. C'è una rubrica, vero, nel sito, Quattro chiacchiere con Margherita. Certo. In cui i propri ragazzi raccontano i propri metiche. Certo, raccontano se stessi le proprie problematiche e qualcuno, qualche Margherita, risponde loro dando loro alcune idee, alcuni suggerimenti, e il dibattito così si rilancia. In questo modo i giovani partecipano attivamente alla costruzione di una propria identità che si riflette decisamente anche sugli altri che leggono. Richiamo i genitori all'ascolto al nome che avete dato al vostro sito, Mettiche, perché per fare prevenzione con un figlio questa è una strategia incredibilmente importante. Cioè, una delle discussioni migliori che potete avviare con un ragazzo di 13, 14, 15 anni è proprio una serie di frasi in cui voi partite con il Mettiche e provate a raccontare. Mettiche, ti trovi coinvolto in una situazione molto problematica che ha queste caratteristiche, e gli descrivete situazioni che potrebbero essere connotate come situazioni a rischio. Tu cosa faresti? Come reagiresti? A chi chiederesti aiuto? Ecco, questo è un modo di portare un figlio, un ragazzo, una ragazza in una simulazione che è molto vicina poi a realtà problematiche con cui si possono trovare a confronto, e in questa discussione con voi, voi proprio gli aiutate a sviluppare competenze protettive, a vedere il rischio laddove tante volte non l'hanno visto e soprattutto quel rischio in cui si possono trovare improvvisamente immersi senza averlo mai immaginato e che a quel punto non sanno gestire. Allora, www.mettiche, io penso che, dottoressa Giommi, sia questo anche un po' un modo per parlare di sessualità con i propri figli, andando proprio insieme a visitare questo sito. Lei che dice? Sì, in realtà condividere le forme di formazione e informazione e magari anche suggerire un ambiente, un luogo dove si possano confrontare le proprie esperienze oppure attraverso le esperienze degli altri capire cosa potrebbero essere le situazioni che ti trovi di fronte, perché in realtà appunto i ragazzi e le ragazze poi hanno nonostante tutto dei problemi che si somigliano, cioè quindi anche nelle loro narrazioni ci sono poi appunto la ricerca di risposte per cose o che hanno vissuto i loro amici o che stanno vivendo, cioè quindi avere comunque un punto dove insieme, oppure perché i genitori l'hanno percorso questo sito e poi lo offrono come informazione, credo che sia sempre un buon modo per mettere in circolazione le notizie utili e anche appunto condividere le esperienze. Volevo chiedergli che richieste hanno fatto i ragazzi? Che idea si è fatto di questi nostri giovani che muovono i primi passi nella sessualità con tanti dubbi, magari poca informazione, un'informazione poco qualificata, il desiderio di chiedere ma forse a volte il timore di farlo? Beh, intanto sicuramente che hanno bisogno di informazioni, ma soprattutto di informazioni validate e sicure. Hanno il dubbio su a chi rivolgersi per avere informazioni, noi li andiamo stimolando a rivolgersi certo alla scienza, cioè al loro medico o al ginecologo, all'andrologo a seconda dei casi, ma anche alla famiglia, perché ovviamente attraverso il rapporto con la famiglia si può consolidare un atteggiamento maturo rispetto alla sessualità. In ogni caso riteniamo di poter dire comunque che c'è un grande bisogno di informazione certa, e nelle prime risposte che abbiamo avuto abbiamo sicuramente la certezza che molti di loro hanno trovato un punto di riferimento preciso in questo sito. Professor Arisi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a tutti voi e buon lavoro. I miei primi ricordi di educazione sessuale, ci scrive Andrea, sono quelli relativi a quando leggevo gli articoli della dottoressa Giommi sulle riviste lasciate in giro da mia mamma. Dottoressa Giommi. In realtà appunto è tanti anni che io cerco di passare appunto una confidenzialità, cioè una possibilità di avere delle risposte anche quando magari non è ancora il momento per te, e poi le puoi tirar fuori dalla memoria, cioè nel momento in cui ti trovi in una situazione che ti serve, sia appunto a livello delle emozioni o a livello del corpo, della sessualità. Andiamo a Modena, ci aspetta Mario, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io ho 51 anni, ho 3 figli, una ragazza 18, un ragazzo 16 e un'altra ragazza 12. Allora, volevo dire queste cose sulla mia esperienza all'educazione, diciamo anche sessuale, ai miei figli. Allora, intanto è un discorso, secondo me, molto più complessivo, no? Complesso, del fatto della mera sessualità, cioè è il rapporto dell'educazione verso gli altri di tutta la persona. Certo. E bisogna riinsegnare ai nostri figli che la sessualità ha un valore altissimo, non è quello che ci insegna la TV, quello, perché noi dobbiamo anche, non l'avete detto, combattere continuamente contro questi messaggi, no? Che se non hai ragazzo, se non hai fatto l'amore a 13 anni, sei uno sfigato, se non vai a letto con qualcuno, eccetera, eccetera, no? Che ci vengono continuamente. Allora, il valore molto alto che ha la sessualità nei rapporti della persona e anche i rischi per conseguenza, che non sono solo quelli di cui parlano i nostri esperti, HIV, malattie venere, eccetera, perché comunque la sessualità ha la capacità di unire due persone, no, a livello di persone, di affettività, eccetera, in un modo molto forte, perché è la relazione più alta, intima. Più intima del rapporto. Quindi rischia, se bruciata, di portare anche i nostri figli verso unioni che sentimentalmente e come persone magari li porteranno a delle gran sofferenze, cioè per dire, come si diceva una volta, per tutta la vita, oggi ormai non esiste più, ma anche se fosse per qualche anno legati da una sessualità mal indirizzata, porta comunque a delle lacerazioni, a delle sofferenze. Penso che su questo sia una cosa. Grazie Mario. Che non ci possa... No, assolutamente, siamo assolutamente d'accordo. Alberto. Sì, e credo che questo sia proprio un po' il messaggio che dava anche la dottoressa Giommi quando diceva educhiamoli ad avere il cervello acceso, e avere il cervello acceso significa mettere a disposizione i pensieri verso il mondo delle emozioni, delle relazioni, e non trasformare la sessualità in pura pulsionalità o istintualità. Deborah dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo, siamo arrivati all'età adolescenziale, ma io volevo portare la mia esperienza rispetto, diciamo, all'educazione, diciamo, la conoscenza della sessualità per mia figlia è iniziato da che lei era piccola, dalle sue prime domande. Insomma, ha fatto le cose per bene, Deborah. Come? Lei ha fatto le cose per bene. Ma non lo so. Ma insomma. Venendo alla domanda, Deborah, perché abbiamo pochi minuti alla chiusura. No, rispetto, le dicevo a Cetranista, la mia esperienza di... ho una community di mamme in rete da 12 anni, la grossa difficoltà che c'è nelle mamme nel rispondere molto tranquillamente e serenamente su quello che sono le domande sulla sessualità di bambini a partire dai 4 anni in su. Questo panico di dire oddio mio, mia figlia mi ha chiesto come nascono i bambini. Allora guardi, io qua al telefono la dottoressa Giommi e qua in studio Alberto Pellai, non per promuovere i libri, ma voglio dire, Alberto Pellai ha scritto proprio una serie di libri indicati proprio ai genitori di bambini piccoli per spiegare la sessualità ai bambini di 4, 5, 6 anni, mentre la dottoressa Giommi ha scritto questo libro di cui parliamo oggi, Sesso Under 18. Ci sono delle informazioni in rete. Alberto, qualche libro? Io consiglio Col cavolo la cicogna, che è un libro che ho scritto direttamente per i bambini da leggere mamma e figlio insieme, e un libro invece, Mamma cos'è l'amore, che è proprio un libro invece, una guida per genitori. Consiglio anche un bellissimo libro della dottoressa Giommi, sempre per bambini più piccoli, Io bambino, io bambina, che è un libro edito da Fabri e che a casa nostra ha avuto grande successo con i miei figli. Quindi metabolizziamo leggendo e saremo preparati a rispondere. Carmelo, posso salutare Anna da Pordenone? Sì, Carmelo mi dice di sì. Anna, buongiorno. Buongiorno a voi. Dobbiamo fare veloce, Anna. Sì, io mi trovo, penso l'esempio classico, la mamma proprio doc in questo momento della vostra trasmissione, figlio 14enne, è partito ieri dall'Inghilterra, primo innamoramento avvenuto sotto Natale, cioè proprio sono già tutte, ne ha prese tutte. Io innanzitutto volevo solo ringraziarvi perché ho preso spunto dai vostri suggerimenti. E con mio figlio è stato molto facile parlare di certe cose proprio grazie anche ai libri che abbiamo letto assieme, che abbiamo visto assieme e guardato assieme. E loro sono molto curiosi in certi momenti, cioè nel senso che quando hanno necessità chiedono. Sì. Bisogna assolutamente non sentirsi in imbarazzo, perché sono delle cose fondamentali per i ragazzini di 14 anni e anche prima. Io volevo ringraziarvi soprattutto perché ho preso spunto diversi anni fa da una vostra trasmissione proprio e volevo dire a tutti, cosa che io farò adesso con mio figlio, di portare i ragazzini proprio, anche maschi, perché penso solo alle femmine, da un medico quando sono in una certa età. Sì. Sotto gli esami è successo che un ragazzino in classe con mio figlio Pietro ha avuto un problema molto serio con un testicolo, non so come si chiama esattamente la patologia, ma un attorcigliamento proprio del testicolo che l'ha portato ad essere operato nel giro di 2 ore, rischiando veramente grosso, perché ha rischiato veramente molto sia di perdere il testicolo che proprio di avere problemi molto importanti. Questo mi ha dato chiaramente opportunità, per grande confidenza con mio figlio, però di parlare anche a livello medico oltre che affettivo, cioè ci sono tantissime... Sì, come diceva il nostro ascoltatore di prima, non è un argomento che si può affrontare a settori, ma in modo complessivo. Anna, mi spiace, ma io devo salutarla, saluto anche la dottoressa Giommi. Alberto, noi ci vediamo sabato, grazie per averci seguito, un saluto da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.